get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a voi, quella che ascolterete sarà la nostra 226esima trasmissione. In studio questa sera saremo in due, io, Manuela, e Caterina, che mi aiuterà ad imparare come funziona il mixer. Io ancora non ho imparato io, sarà ardua questa cosa. No, ma l'unione fa la forza. La scaletta è abbastanza nutrita perché volevamo comunicarvi una serie di cose che ci premeva farvi sapere e quindi gli argomenti saranno abbastanza vari. Inizieremo con leggervi un nostro comunicato relativo alla manifestazione Uguali dello scorso 10 ottobre, con alcuni accenni alla legge Concia e alla bagarre che di seguito si è scatenata. Vi metteremo inoltre a conoscenza di alcune scoperte scientifiche che ci hanno fatto riflettere, così come speriamo inducano anche voi ad alcune riflessioni. E per finire vi aggiorneremo sulla riunione organizzativa fatta in preparazione delle 5 giornate lesbiche che si è tenuta domenica 11 ottobre nei locali della Casa Internazionale delle Donne. Allora, questa, come sapete, è la seconda trasmissione che facciamo dopo la pausa, definiamola estiva, forse un po' troppo lunga come estate, e cominciamo subito con i primi inconvenienti, perché ricordate, chi ci segue, spero se lo ricordi, noi abbiamo sempre avuto un telefono cellulare sul quale davamo la possibilità a chiunque ci ascoltava di mandarci le proprie riflessioni. Bene, questo telefono, abbiamo un grande problema con questo telefono, che in questo momento è inattivo, insomma non riusciamo più a fare in modo che possa essere utilizzabile. Allora, siccome ci stiamo attrezzando per mettere a disposizione di chiunque ci ascolti una linea telefonica sul quale mandare gli sms, vi preghiamo di non utilizzare il numero vecchio, perché altrimenti i messaggi non ci arriveranno mai, ok? Allora, Manuela vi ha letto un attimino la scaletta della trasmissione di oggi e, vista l'ampia carrellata di argomenti, io direi di ascoltare subito un brano musicale. È una canzone che a noi piace molto e questa sera abbiamo messo solo canzoni che ci piacciono. Se volete farci sapere se anche a voi piacciono, potete telefonarci direttamente qui alla radio, va bene? Allora, si tratta di Chivalry e il brano è Good Night Moon. What should I do? Just a little baby. Allora, cominciamo la nostra trasmissione. Dunque, il 10 ottobre si è tenuta a Roma la manifestazione Uguali contro l'omofobia, la cui piattaforma politica ci è sembrata la fotocopia del Pride nazionale. Sparita la pregiudiziale dell'antifascismo, che invece era presente nel Pride romano, quello che rimaneva, salvo qualche flebile richiamo ai migranti e alle donne, era la reiterata ed ossessiva richiesta di diritti con il matrimonio in testa. È un caso che l'onorevole Concia sia andata a parlare con i fascisti di Casa Pound, ed è un caso che alle fiaccolate spontanee ci sia stata una presenza massiccia di Alleanza Nazionale, compreso il patrocinio del Comune di Roma? In tutta questa confusione di opinioni, di ipotesi, di rivendicazioni e di proclami, abbiamo faticato non poco a trovare il bandolo della matassa. In situazioni dove da una parte ci sono i buoni e dall'altra i cattivi, con definizioni così nette, ci resta veramente difficile esprimere una posizione, perché i buoni sono quelli che dicono che l'omofobia è un reato, ed è assolutamente vero, però vogliono la famiglia e l'omologazione. I cattivi invece dicono che l'omofobia non esiste, ma proteggono i picchiatori fascisti che si divertono a massacrare i gay, le lesbiche e i trans. Anche per questo non siamo scese in piazza per la manifestazione noi del CLR, nella manifestazione del 10 ottobre, in cui si dichiarava di essere contro l'omofobia, ma ci si auspicava di diventare tutte e tutti uguali. Ma uguali a chi? Uguali alla destra becera, che sbeffeggia i cosiddetti diversi, o uguali alla sinistra fintamente progressista, che poi trasversalmente riesce, andando in autogol, ad affossare la proposta di legge contro l'omofobia presentata in Parlamento da una sua stessa esponente, sempre l'ineffabile Paola Concia, grazie anche al contributo della senatrice di Dio. Fermo restando che per noi la diversità resta un valore, vogliamo ribadire che ci teniamo ad essere diverse da chi si mette il cilicio e non viene definita sadomaso, da chi ci chiama culattoni e magari di notte va a cercare trans, da chi fa il moralista e si è fatto sciogliere il matrimonio dalla sacra rota ed ha un'altra famiglia ed altri figli, da chi, come Renato Farina, ci chiede se sia più grave uccidere un gay o un padre di famiglia, magari quello stesso padre di famiglia che uccide la moglie ed i figli dopo essere tornato stanco da una ronda. Noi sì, siamo diverse, noi siamo per esprimere patti di solidarietà, non solo perché stabiliti dalla legge dello Stato, e siamo solidali con le migranti che preferiscono uccidere nei CIE piuttosto che tornare in Libia per essere stuprate da quelli che hanno stretto patti di respingimento con lo Stato italiano. Quindi non siamo e non vogliamo essere uguali, e proprio perché non siamo uguali, sempre uguali, faremo uno strappo alla regola citando un uomo e nella fattispecie Adriano Sofri, che su Repubblica del 15 ottobre scrive così: la paura dello straniero o del diverso, ci si dice per sdrammatizzare, è comprensibile e non bisogna vergognarsene. Ma nella nostra omofobia, nella nostra xenofobia, la paura cede all'avversione, all'ostilità, all'odio. Nei composti il contrario si dice con filia, e infatti è l'amore il contrario dell'odio. L'omosessuale non è il contrario, l'invertito dell'etero, gli assomiglia, quindi è diverso. È diverso, quindi non è uguale, quindi gli assomiglia. Ecco, come dire, non siamo tutti uguali, tutt'al più ci assomigliamo. Ed ora ascoltiamo un bellissimo brano musicale dal titolo L'amore si odia, di Noemi e Fiorella Mannoia. Thank you. vieni qua, che ti dovevo dire tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, godere o finire. Vieni qua, sempre la stessa storia, un equilibrio instabile, instabile, che crolla al vento di una nuova gloria, l'amore si odia. Se fosse così facile, se fosse ancora qua, io ti volevo bene, ma riparlarne è inutile, inutile, non ha più senso pensarti, capire, provare o sparire. Vieni qua, le solite parole di un sentimento fragile, fragile, come l'asfalto consuma la suola, l'amore si odia. Se fosse tutto facile, per tutto quello che conta, se conta, sei come colla sulle dita. Che conta, se conta, sei la mia impronta sulle dita. Eccoci qua, un ringraziamento particolare a Caterina, perché ammetto, non conoscevo questa canzone. Vabbè, è nuovissima, dai. Però per me sì. Dunque, torniamo a Nobis. Ora vi farò un report dell'incontro per la 5 giorni lesbica di giugno 2010. Dunque, domenica 11 ottobre scorso alla Casa Internazionale delle Donne si è tenuto il primo incontro nazionale convocato per la realizzazione della 5 giorni lesbica. Grande la partecipazione, molte le donne intervenute da varie parti dell'Italia, da nord a sud, da est a ovest. Ottima l'organizzazione, previsto il pranzo, da bere e anche il caffè. Ottimo il confronto e la capacità di autoregolarsi delle donne che hanno parlato. Ottima la facoltà di coinvolgimento che ha permesso di intervenire e di presentarsi a tante. La sede scelta, la Casa Internazionale delle Donne di Roma, individuata come luogo di riferimento delle donne non solo sul piano aggregativo ma anche politico e per la produzione teorica, sede naturale del movimento lesbico e femminista. La pratica scelta è quella separatista. Le 8 donne che si sono fatte promotrici dell'incontro e della 5 giorni si sono presentate, ci hanno raccontato come è nato il progetto, sostenendo che ha senso solo se è collettivo e rappresentativo delle varie realtà. La presentazione è stata corale, ognuna ha assunto su di sé la responsabilità del tutto e di una parte della quale ha parlato in particolare. Sono state espresse alcune pregiudiziali, da parte nostra molto condivisibili, ma nessuna dell'Assemblea le ha messe in discussione. L'antifascismo e dunque il non aver invitato donne lesbiche dichiaratamente di destra. Il criterio dell'inclusività, tutte le realtà hanno il diritto di autorappresentarsi e di prendere parola e l'unica esclusione dichiarata per le eventuali rappresentative di partiti, quindi no fasciste e no politiche militanti nei partiti. Le magnifiche otto, come qualcuna le ha definite, hanno proposto 5 argomenti che oseremo definire argomentoni sui quali aprire una riflessione ed un confronto collettivo da qui fino a giugno. Naturalmente, in corso d'opera, questi filoni di lavoro potranno essere integrati, ampliati e quant'altro le donne impegnate in tale opera avranno desiderio di fare. Veniamo dunque ai temi. Dunque, i temi. Teoria lesbica, primo. Secondo, politica lesbica, terzo. Arte, che comprende video, film, letteratura, installazioni, eccetera. Comunicazione, sessualità e relazioni, intese come gruppali, associative, di rete. Altro esempio preso in esame dalle promotrici è stato quello dell'organizzazione nei vari aspetti. Il primo legato allo svolgimento delle 5 giornate con la previsione di spazi adeguati per gruppi di lavoro, seminari, relazioni a tema, incontri con straniere e migranti, attività artistiche, appunto installazioni, video, teatro, insomma e quant'altro ci venga a mente, ma anche spazi per il cosiddetto ABC lesbico, quindi il separatismo, il femminismo e l'eterosessualità obbligatoria, che spero e mi auguro ognuna di voi conosca. Il secondo, legato alla costruzione dell'evento e dunque alla raccolta del materiale e alla condivisione delle responsabilità. Per questo si è individuata la figura della referente, il cui ruolo è quello di catalizzatrice e non di selezionatrice. In altre parole, dovrà privilegiare le relazioni politiche in una posizione di orizzontalità e non di verticismo, fungendo da cinghia di trasmissione delle varie realtà, comprese appunto le ideatrici della 5 giorni. Sono state individuate alcune referenti per teoria e politica lesbica, per arti figurative, cinema e per le politiche dei diritti. Poi su queste cose vi aggiorneremo strada facendo, insomma. Il terzo aspetto, appunto, è legato alla possibilità di poter dialogare a distanza, appunto perché ci sono donne che vengono da un po' tutta Italia e quindi attraverso la rete, e per questo appunto si è aperto il sito www.5giornatelesbiche.org. Ovviamente è tutto attaccato. Sul sito troverete inoltre la mail e la newsletter. Il quarto, sul finanziamento, in parte attraverso l'autofinanziamento con iniziative di vario genere e per le quali sono gradite idee e proposte. La sera prima, infatti, c'è stato il concerto. Poi si è organizzata una cena festa per Capodanno, già indetta da ora, anche se i dettagli non sono ancora noti. Cioè hanno ipotizzato di organizzare questa festa? Sì, l'hanno più che ipotizzata, l'hanno data per certa, però okay. A livello... I dettagli sono da definire. I dettagli non ci sono stati comunicati ancora neanche okay. A noi, quindi anche okay. Su questo vi terremo aggiornate. E poi appunto anche la ricerca di sponsor, ovviamente politicamente corretti. e contributi di tipo istituzionale, dove i riferimenti sono più che altro alla regione e la provincia. Come mai non c'è il comune? Qui a Roma qui è un caso, ma nulla accade a caso, insomma. Vabbè. Con un pizzico di logica e deduzione ci arriviamo da sole. Importante la scelta del logo, che dovrà essere condivisa. È interessante anche la proposta di poster su gruppi e associazioni da ospitare nella 5 giorni per creare contatti e conoscere le diverse realtà che così si racconteranno a modo loro. E quindi ognuna di noi, voi tutte, avremo modo di raccontarci. Un altro tema introdotto dalle promotrici e aperto alla discussione collettiva è quello relativo alla partecipazione dei delle trans. Un invito a ripensare le soggettività e le nuove soggettività. La richiesta è quella di problematizzare la questione dell'identità, anche in relazione all'evoluzione che questa questione ha e ha avuto nel tempo, portando l'attenzione sull'autenticità dei vissuti. Qui in pratica il discorso è chiaro che una trans interessata a venire alla 5 giorni lesbica ha più o meno fatto già un certo percorso interiore, perché altrimenti non verrà. Qui il dibattito è stato abbastanza ampio anche su questo, insomma, come dire, alla fine non si è deciso nulla, nessuna conclusione, sì, quindi, insomma, il discorso è aperto ancora. Sì, ancora più che aperto. È seguito poi un dibattito interessante e arricchente. Sono stati fatti riferimenti alla politica attuale, alla necessità di interpretare questo momento politico dal nostro punto di vista, e cioè come lesbiche, e tanti altri spunti interessanti che le promotrici si sono impegnate a far circolare. Prossimo appuntamento nazionale a gennaio, e da ora fino a quella data ognuna può riflettere su quanto è uscito da questo primo incontro e può contattare il sito, che, ripeto per chi non avesse avuto il tempo, .5giornatelesbiche.org, tutto attaccato, tutto minuscolo, insomma, come dire, le solite cose. E poi mi sembra che hai detto che ci sta anche una mail di riferimento, sì, e una newsletter, che se ti scrivi sarà informata. E sul sito, sì, perché ora l'indirizzo io a memoria non lo ricordo. No, però, ma se c'è il sito, uno va là e lo trova. Certo. E quindi, come dire, buon lavoro a tutte noi, le CLF. Ok, io penso che questa sia un buon proposito, anche perché nel corso degli anni passati ci sono state delle iniziative che facevano un po' il punto della situazione sulle realtà esistenti, che erano le settimane lesbiche, ma sono ormai anni che non ci sono più. Se non ricordo male, l'ultima è stata, e dubito di sbagliarmi, 10 anni fa. Ecco, appunto, quindi se ne sentiva proprio la l'esigenza, necessità, necessità, è certo. Ok, io direi di fare uno stacchetto musicale. Concordo. Esatto, adesso voi dovete sapere una cosa, che io e Manuela, diciamo, noi parliamo benissimo il sanscrito, l'aramaico e lo svedese. Con l'inglese abbiamo un po' di intoppo, abbiamo fatto pari e dispari per dire chi leggeva questo titolo. Allora, ho vinto io, quindi lo legge Manuela. Io però poi do la traduzione in italiano, va bene? Ok. Allora, perdonate la pronuncia, però è un brano davvero bellissimo. Bonnie Taylor e Kim Carnes, Total Eclipse of the Heart. Significa praticamente l'eclisse totale del cuore, va bene? Andiamo sul sicuro. Ok, buon ascolto. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Every now and then I fall apart. Turn around.

Rammentiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per iniziare ad ascoltarci. Salutiamo tutte le donne che ci accompagnano ascoltando Radio Onda Rossa e la nostra trasmissione. In questo modo si rende possibile la prosecuzione della nostra avventura dietro questi liberi microfoni. Se ci state ascoltando via internet, ci farebbe piacere sapere da dove. Inoltre potete fare il graditissimo trillino, cioè significa basta far squillare il telefono di Radio Onda Rossa componendolo 06 49 17 50, oggi non avendo il cellulare a disposizione ancora più graditi del solito, quindi lasciate squillare una sola volta e poi riagganciate e noi capiremo che ci siete e che ci state ascoltando. Potete anche inviarci un'email al nostro indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp.it, oppure ancora telefonarci in sede alla nostra, quella del CLR, quindi mi raccomando solo il giovedì sera, che noi ci siamo solo il giovedì, allo 06 6864 201. E il giovedì ci troverete appunto dalle 21 fino alle 22:30 circa. Ah, usai rumenta argomenti, diciamo. Sì, sì, è molto variabile, esatto. La durata. Oppure appunto qui alla radio durante la trasmissione. Certo, se siamo in diretta abbiate pazienza perché rispondervi potrebbe diventare complicato, ma comunque sia sappiate che faremo sempre e comunque il possibile. Ma non finisce qui. Per le amanti della carta, e io mi metto tra queste, una di queste potete scriverci una lettera indirizzata CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Ripetiamo ancora il telefono della radio 06 4917 50 e il nostro cellulare che vi daremo il prima possibile. Ok. Allora, continuiamo la nostra trasmissione mettendovi al corrente di quella scoperta scientifica che dicevamo all'inizio nel snocciolare la scaletta di oggi. Allora, sono anni ormai che noi rivendichiamo un'intelligenza superiore delle donne rispetto a quella degli uomini. Ma che l'intelligenza di per sé non sia soltanto una prerogativa del genere umano è altrettanto risaputo. E se in passato abbiamo sostenuto le teorie sulla partenogenesi, che sostanzialmente vanificano l'importanza della presenza maschile nel ciclo della riproduzione, oggi non possiamo che gioire di questa notizia che riporta una scoperta scientifica della quale si è discusso, tra altre informazioni, a Bergamo Scienza dal 3 al 18 ottobre di quest'anno. Ora, non so quante di voi hanno avuto l'opportunità o la fortuna di leggere un libro ormai diventato introvabile dal titolo La difesa di Shora. In questo libro di fantascienza si raccontavano le avventure di un pianeta, Shora appunto, sul quale vivevano solo ed esclusivamente esseri appartenenti al sesso femminile. Man mano che si leggeva si andava prospettando una magnifica organizzazione che prevedeva la tutela dell'essere vivente, la salvaguardia della salute, la mancanza gerarchica nelle relazioni sociali, l'autosufficienza alimentare, l'assoluta parità economica, l'incentivazione della ricerca, la cura delle attività produttive e la garanzia totale della sopravvivenza della specie. Vera e propria fantascienza. A noi lesbiche di una certa età e amanti delle teorie sulla partenogenesi, quel libro sembrava un concentrato di possibilità. Oggi purtroppo siamo un po' disilluse rispetto alle reali possibilità di creare un pianeta come Shora, soprattutto quando le diverse poche libertà di stampa, o se preferite le notizie pilotate, vorrebbero riempirci la testa di donne immagine, veline, escort, dame di compagnia e simili, credendo di convincerci che queste, per libera scelta, assecondino volentieri le vie gradate e inconfessabili voglie virili di un consumatore finale di prestigio. A noi di una certa età, tutti questi termini esotici continuano a sembrarci fuori luogo e devianti. Per noi le puttane sono puttane e preferiremmo interrogarci invece sul perché una donna sia veramente convinta oggi di aver scelto di diventarlo. Così come del resto un puttaniere rimane sempre un puttaniere. Finale o meno che sia, l'utilizzo che fa del corpo delle donne ed il rispetto per la donna che manifesta abusandola rimangono azioni e concetti quantomeno discutibili. Detta così sembra un discorso senza speranze, e forse può diventarlo davvero se le donne non ricominciano presto a lottare e ad incazzarsi un po'. Ma iniziamo da un piccolo aspetto, quella della terminologia, ad analizzare la questione. Da sempre sono stati utilizzati alcuni termini per identificare le prostitute, nel parlare comune si venivano definite passeggiatrici, donnine allegre. Ma c'era un altro termine identificativo che veniva loro attribuito, quello delle lucciole. Con questi appellativi si è sempre cercato di sminuire la gravità del loro reale significato, cercando di nascondere, di fatto, tutta la violenza che stava dietro. Nell'immaginario collettivo doveva passare l'idea che quelle donne sbattute per strada a soddisfare i desideri degli uomini predatori e padroni, tutto sommato, vivevano una condizione soddisfacente, passeggiare certamente appaga chiunque, vivevano una condizione spensierata, l'essere così allegra è sicuramente segno di serenità e soprattutto riproponevano una condizione assolutamente naturale proprio come quella delle lucciole. Sapete perché si è scelto proprio questo animale? Perché in natura la lucciola femmina emette un segnale luminoso, una sorta di codice di richiamo che attira il maschio. Spesso e volentieri la femmina lucciola se ne sta tranquilla a raso terra e attende che il maschio capti il suo richiamo e si precipiti su di lei per accoppiarsi. In questa dinamica riproduttiva delle lucciole si voleva identificare un comportamento umano, quello delle prostitute. Definendole lucciole, si voleva far credere che tranquillamente, anzi con leggiadria, spensieratezza, e non dimentichiamolo assolutamente per natura o se preferite per indole, quelle donne mandavano richiami ai maschi, badate bene, a tutti i maschi senza eccezione alcuna, e aspettavano con ansia di accoppiarsi. Era la parodia di una realtà distorta che rendeva sì vittime le donne, ma con la prerogativa del protagonismo e della scelta. È risaputo che nel giro della prostituzione invece non esiste e non è mai esistita scelta alcuna per le donne. Ma oggi la situazione non è cambiata molto. C'è ancora quella distorsione della realtà che sta raggiungendo livelli drammatici, così come ha fatto rilevare anche Nadia Urbinati nel suo articolo che citiamo volentieri. Giovani donne si lasciano abbagliare da vecchi e meno vecchi uomini potenti che accettano di farsi rimpicciolire fingendosi bimbe di un papi. Non c'è glamour in questa società di diminutivi. Le ragazze sono veline, meteorine, ricevono farfalline e tartarughine, un linguaggio che le rimpicciolisce trasformando il serraglio in un parco ludico infantile. E allora mi viene da dire che sì, dobbiamo davvero prendere esempio dalla natura. E qui torniamo a bomba alla notizia scientifica assolutamente vera di cui vogliamo parlarvi. Generalmente nel mondo scientifico si identifica come intelligenza ogni comportamento che tenda a risolvere un problema in modo adattivo. Questo adattarsi alla situazione garantisce la sopravvivenza di chi attua quel comportamento, migliorandone la qualità della vita. La scoperta scientifica riguarda proprio le lucciole, quelle vere questa volta. Abbiamo prima spiegato come funziona la riproduzione tra le lucciole, ma c'è stato quello che noi identifichiamo come un passaggio che delinea una sorta di evoluzione della specie. A questo punto vi starete chiedendo cosa mai sia accaduto nel mondo delle lucciole. Calma, ci vuole pazienza e tranquillità per godere fino in fondo, anche se si tratta di ascoltare un grande insegnamento. Insomma, le lucciole femmine mandano i richiami, i maschi lucciola li captano e si precipitano, ma esistono varie tipologie di lucciole che si differenziano come specie. È come dire in pratica che esiste il pesce azzurro e non sottolineare che ci sono molte varietà di pesce azzurro. Così sarebbe riduttivo affermare che esistono le lucciole e basta, senza specificare che ne esistono di specie diverse. Bene. Una di queste specie, per l'esattezza le lucciole Photuris, stavano forse rischiando l'estinzione, o avevano problemi alimentari, o semplicemente erano stanche di essere predate anche dai pipistrelli che sembrano gradirle molto come gusto e consistenza. Forse non sapremo mai quale di queste motivazioni hanno spinto queste lucciole intelligenti ad imparare a fare proprio il codice di richiamo di un'altra specie di lucciole, quelle Photinus. Fatto sta che gli studiosi hanno rilevato che le femmine Photuris, mettendosi per terra in mezzo all'erba, hanno iniziato a mandare in giro i richiami per i maschi Photinus, i quali, arrapati come possono essere arrapati i maschi, si catapultano verso terra convinti che di lì a poco potranno ricevere l'agognato delirio dei sensi. Ma con grande stupore ricevono invece tutt'altro trattamento. A sorpresa vengono amabilmente ingurgitati dalle femmine. Sì, avete capito bene, praticamente se li mangiano e non di baci, proprio a quattro ganasce. In questo originale modo, gli studiosi hanno potuto constatare che la specie Photuris non sta soffrendo più la fame, si riproduce con normalità e abbondanza, anche perché, tra le tante modificazioni apportate alla loro specie originaria, c'è stata anche quella legata al sapore. Sì, perché sono state in grado di rendere il proprio sapore assolutamente insopportabile per il gusto dei pipistrelli, che solitamente le rendevano loro prede. Visto il saporaccio che rimaneva in bocca, i pipistrelli hanno iniziato a direzionare la loro caccia altrove. A questo punto che dire ancora? Altro che escort, questa è la vera rivoluzione delle lucciole. Meditate, donne, meditate. Allora, dopo questa notizia scientifica, mandiamo un brano musicale. È una canzone che a me piace molto, vi prego di ascoltare bene le parole, perché è di la canta Giusy Ferreri. E si intitola Passione Positiva, soltanto che non so se avete avuto modo di vedere il video della prima canzone che l'ha resa famosa, quella Non ti scordar di me. Lei nel video praticamente, nel raccontare la sua tristezza per l'abbandono e la fine di una storia, sta a casa e ricorda, e alla fine suonano la porta ed è una donna che entra. Allora io

3 minuti e 16 secondi. Ah, sì. Io questa perché... sera mi sto facendo una cultura musicale perché no. Due canzoni le conoscevo ma non sapevo questa i titoli. Sicuramente la conosci, è come dire molto familiare alle lesbiche attempate come me. Allora è una canzone molto simpatica, veramente molto simpatica, una cantante che aveva una carica esplosiva dentro che purtroppo non c'è più, è un modo per ricordarla e quindi noi vi salutiamo e al termine di questa canzone di Gabriella Ferri dal titolo Rosamunda andrà in onda la sigla finale e noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Baci, abbracci, ciao, ciao da Caterina e Manuela. Ciao ciao. Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata, sembra quasi preparata da una fata delicata. Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici, sono tutti in allegria. Oh, che felicità! Rosamunda, se mi guardi tu, Rosamunda, non resisto più. Tutte le coppie fanno inciampare, più non mi trovo a saltellare. Rosamunda, tu mi fai gioire, Rosamunda, tu mi fai stordire. Sotto le stelle a cuore, a cuore, è tanto bello fare all'amore. Conto a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.